di solito facciamo la risposta del sutra del cuore, poi aggiustiamo la nostra mente e c'è la presa di rifugio, aggiustiamo la nostra mente e andiamo avanti con te, con l'argomento. Mi prostro ai tuoi gioielli supremi, così una volta vuol dire il Bhagavan di Maharaja Griya sulla montagna perché devoto del Sema Vassanga di Monaci o Vassanga di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato prostrazione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Vakriteshvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza, vedica in cinque aggregati come vuoti di intrinseca natura. Poi tramite il potere del Buddha e il venerabile Shariputra, così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Vakriteshvara, come deve addestrarsi ogni filo del lineaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza. Così egli parlò ai Bodhisattva Mahasattva Arya Vakriteshvara, rispose allora al venerabile figlio di Sarvati, Shariputra, ogni figlio figlia del lineaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza, apprendendo correttamente e ripetutamente che cinque aggregati come vuoti di intrinseca natura, la forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che la vacuità. Allo stesso modo sono vuote sensazioni, discriminazioni, fattore di composizione e coscienza. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti, non cessano, non sono contaminati, non sono privi di contaminazione, non diminuiscono, non crescono. Perciò, Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattore di composizione, né coscienza, non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, neppure il costituente dell'occhio e così via, per includere il costituente della mente, il costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, né estensione dell'ignoranza, per includere vecchiaia e morte, estensione della vecchiaia e della morte. Similmente, non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Non c'è saggezza suprema né ottenimenti, neppure mancanza di ottenimenti. Perciò Shariputra, poiché non c'è ottenimenti, i Bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza, le loro menti senza più oscurazione e senza paura, essendo completamente andati al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale, il Nirvana, ed affidandosi alla perfezione della saggezza, è evidente che tutti i Buddha dimorati nei tre tempi sono anche completamente risvegliati all'insorpassabile e perfetta piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra uguale ciò che non uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso dovrebbe essere conosciuto come vero, si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata agate gate paragate parasam gate bodhisattva. Shariputra in questo modo che il bodhisattva Mahasattva dovrebbe stare nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan, nel mese da quel samadhi, elogiò il bodhisattva Mahasattva Ritejura dicendo: ben detto, figlio del lineaggio, è proprio così, si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio che tu hai mostrato, e per finita le gate ne gioiscono. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sarasvati, il Bodhisattva Mahasattva, Arya Vakriteshvara, l'intera assemblea intorno a loro, insieme al mondo dei dei uomini, dei semidei, Gandharva, esultarono e posero alte lodi alla parola del Bhagavan. Sangye ancha dam sangye ancha nam lai chan jo ma jo da ne gyab su chi an da gye chin sa gye pe sa nam gye na la pen che sangye drum ba jo sangye ancha dam sangye ancha nam lai chan jo ma jo da ne gyab su chi an da gye chin sa gye pe sa nam gye na la pen che sangye drum ba jo Sangye ancha dan so ye cha nam la Dan jo ba do da ne gyab su chi Ong da gye chin sa gye pe sa nam gye Na la pen che sangye dro ba jo quindi adesso dovremmo aggiustare la propria motivazione, per questo dovremmo prendere in considerazione la fortuna che abbiamo, perché come diciamo di solito non siamo ancora in vita, abbiamo la preziosa rinascita umana, il suo grande potenziale, quindi sulla base di questa esistenza possiamo creare le cause per la felicità futura e eliminare le cause della sofferenza futura, no? Quindi si dovrebbe anche pensare che abbiamo non soltanto la possibilità di incrementare la qualità dell'esperienza all'interno dell'esistenza, ma possiamo anche liberarci completamente, cioè da questa mente, La mente non è intrinsecamente mescolata con le afflizioni mentali come l'odio, la brama, la belligeranza, tutte queste attitudini che ci creano molti disagi nella vita, no? Quindi possiamo fare in modo di separare la nostra mente di queste attitudini mentali, no? E dimorare sempre e fare in modo che quindi piano piano la mente si stabilisce in uno stato di serenità fino a essere completamente separata di queste attitudini e rimanere in uno stato di beatitudine senza dipendere da fenomeni esterni, eccetera. Okay? Non soltanto abbiamo questo potenziale, ma possiamo fare che questa mente sviluppa delle qualità che ci permettono non soltanto di essere felici a un livello personale, ma anche di ricambiare la gentilezza degli altri esseri, no? Che sono stati vicino a noi da tante vite, come i genitori di questa vita, per esempio, e quindi sviluppare delle qualità come la generosità, come l'etica, come la pazienza, essere in grado di avere accesso alle predisposizioni degli esseri, alle loro inclinazioni e piano piano quindi guidarle anche loro ai stati al di là del dolore. Okay? Quindi questo stato è lo stato di Buddha, quindi sarebbe molto opportuno quando ci incontriamo in questi posti, che venite qui, che fate qualsiasi pratica spirituale, lettura, studio, eccetera, di non farle solo nel proprio interesse, ma per fare in modo che questa mente diventa anche un giorno una fonte di felicità e di benessere per gli altri, di pace e di benessere per gli altri. Okay? Quindi quando questa mente ottiene, cioè si sviluppa e aggiunge il suo culmine, questo culmine, il culmine di questa capacità di essere di beneficio agli altri in un modo spontaneo e perfetto, è lo stato di Buddha. Okay? Quindi si dovrebbe cercare di generare questa attitudine, posso io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Questo dovrebbe essere la motivazione o l'attitudine con la quale dovremmo approcciare tutte queste varie pratiche. Perché la motivazione è importante? No? Perché al di là dell'entità dell'attività o dell'azione che funge di cause a un risultato in modo diretto, tutte le altre attività determinano un risultato anche dal punto di vista della propria motivazione o intenzione. Quindi, sì, per esempio studiamo, pratichiamo la meditazione, no? Per ottenere cioè l'ottenimento della per ottenere la liberazione, allora queste pratiche che facciamo avranno come risultato la liberazione, okay? Individuale. Se invece queste stesse pratiche vengono fatte con un'attitudine più ampia, come l'ottenimento motivato quindi della grande compassione, come l'ottenimento del il desiderio di ottenere lo stato di Buddha, allora queste stesse pratiche diventano la causa per ottenere questo risultato. Okay? Perché principalmente quindi la motivazione è molto importante. Okay? Quindi stiamo vedendo questo il Lamrim, quindi sono i stadi del sentiero, siamo quasi alla fine dello scopo intermedio, quindi questo essere che ricerca l'emancipazione della sofferenza cioè a livello personale. Okay? Abbiamo trattato la verità della sofferenza, la verità dell'origine, abbiamo introdotto il sentiero e la cessazione anche, e ci siamo fermati allo sviluppo degli antidoti, no? Abbiamo visto che quindi se vogliamo pacificare la mente, l'unico modo per pacificare la mente, l'unico modo anche per cioè, piano piano introdurre dei cambiamenti in termini di riflessi, di modo di pensare e quindi di comportamento verbale e fisico, è la pratica della meditazione. Okay? E questo è l'unico modo per cambiare la mente e quindi chi cambia la mente cambia anche il proprio comportamento, perché tutto deriva dall'intenzione, no? All'inizio c'è un'intenzione che è un'attività mentale e questa intenzione, questa attività mentale si manifesta tramite l'attività verbale e fisica. Okay? Quindi chi controlla la propria mente controlla il suo comportamento. Abbiamo visto che all'interno dei nostri comportamenti, cioè che principalmente la sofferenza deriva dai propri comportamenti, no? Proprio fisico e verbale. Quindi chi pacifica, riesce a pacificare la mente, quindi non più e non più quindi produrre questi comportamenti, si mette anche come si dice, si protegge anche di sofferenza futura, non soltanto. Ma abbiamo visto anche che principalmente la sofferenza deriva il modo di funzionamento della propria mente. Okay? Finché abbiamo per esempio la brama, l'avversione, la belligeranza, il risentimento, l'orgoglio, la gelosia, l'invidia, è impossibile sperimentare una felicità vera, duratura, stabile. È impossibile. Okay? Quindi chi vuole la felicità, anche se non parliamo, anche se non andiamo così lontano come il concetto dello stato di Buddha, okay? O il concetto della liberazione, anche chi vuole guadagnare un po' di serenità in questa vita, deve piano piano soggiogare, controllare, pacificare, mettiamola così, pacificare la propria mente, no? Perché la propria attività o la propria concettualizzazione non controllata è ciò che crea sofferenza. E abbiamo visto che ultimamente c'è un solo antidoto, nel senso che tutte queste manifestazioni, tutti questi sì, disfunzionanti della mente. Okay, hanno come base il frattendimento della realtà. A proposito, ho controllato nel dizionario, reificazione esiste. Sì, reificazione, reificare esiste. Sì, bisogna prendere un po' più grosso, e lo trovi. È raro di utilizzo, però è un termine filosofico. Okay? Reificare quindi è ciò che è soggetto alla reificazione. Esiste. Ok, comunque andiamo avanti. E quindi questo frattendimento della realtà, okay, che è quindi un sovrimporre, un modo di esistenza sui fenomeni che non hanno, okay? Quindi è aggiungere qualcosa, quindi reificare, rendere reale o veri. Abbiamo spiegato che in questo contesto rendere vero o reale il fenomeno è accettare che il modo di apparenza corrisponda al modo di esistere di questo fenomeno. I vari fenomeni ci appaiono in un modo, è il credere che effettivamente il modo di esistenza è in accordo col modo di con l'apparenza, questa è l'ignoranza. Okay? Finché c'è questo frattendimento della realtà, okay, allora abbiamo tutti questi movimenti mentali che sono anche logico rispetto al modo di concepire il proprio mondo, no? Nel senso che sì, dei fenomeni cioè, appaiono del loro lato come avendo degli attributi di piacevolezza o di sgradevolezza, no? Quindi pensiamo che tale fenomeno ci può dal suo lato produrre felicità o dal suo lato è attraente, invece un altro dal suo lato mi produce della sofferenza, produce la sofferenza in me o del suo lato è sgradevole, allora automaticamente c'è l'avversione dell'attaccamento che si manifestano. Quindi il realizzare che questo modo di realizzare che questo è il prodotto dell'ignoranza, che effettivamente che i fenomeni sono privi di caratteristiche intrinseche, di una natura intrinseca, questo è realizzare quindi la vacuità, okay? Questo è il modo di esistere dei fenomeni. E quando questo viene realizzato, quindi all'inizio a livello concettuale, poi direttamente, questo pacifica le afflizioni, nel senso che le afflizioni non possono più sorgere perché non hanno più il posto per atterrare. Okay? L'afflizione si muove, per esempio, se prendiamo l'attaccamento, si muove perché c'è un oggetto intrinsecamente attraente, dal suo lato è attraente, non è una proiezione, gli attributi non sono proiettati dalla mia mente, ma esistono dal lato dell'oggetto. Quindi quando si realizza che il fenomeno è depauperato di questi attributi, allora l'attaccamento non può più sorgere perché non ha più un posto per atterrare. Quindi questo è il modo nel quale la mente viene pacificata dalla comprensione del vero modo di esistere dei fenomeni. Però per arrivare a questo ci vuole molto tempo, ok? Non è una cosa semplice, perché l'ignoranza è associata alla nostra continuità mentale del tempo senza inizio, quindi è molto difficile di avere accesso a questa dimensione della realtà, molto difficile, è un impegno, sì, molto lungo, ok? Quindi non possiamo quindi aspettare. Okay, tutto questo tempo per incominciare a pacificare la mente. Quindi abbiamo dei antidoti temporanei. Si dice temporanei? Temporanei. Dei cerotti. Okay? Temporanei. Okay? Questo essendo quell'altro, ultimo, temporaneo, più convenzionale. Che sono, quindi non sono universali, nel senso che ogni afflizione mentale avrà il suo antidoto per pacificarlo momentaneamente, renderlo. Fino a renderlo non manifesto. Quindi all'inizio quello che cerchiamo di fare è di pacificare il sorgere dell'afflizione. L'afflizione sorge a un'amplitudine abbastanza importante. Quindi con questi antidoti andremo a calmare la potenza di questa afflizione mentale finché questa afflizione mentale non sia più in grado di controllare il proprio comportamento. Non sia più in grado di controllare il proprio comportamento. E possiamo anche arrivare quindi a renderla non manifesta, okay? Ma non possiamo sradicarla completamente. Solo una reazione diretta della natura dei fenomeni può sradicare l'afflizione completamente. E quindi abbiamo visto che cos'è la meditazione. La meditazione abbiamo visto che nel buddismo è il familiarizzare la mente con un oggetto virtuoso. Cos'è un oggetto virtuoso? È quindi un antidoto, okay? Un antidoto. Qual è il suo scopo? Lo scopo è quindi di incrementare gli aspetti benefici della propria mente, quindi gli aspetti salutari, per incrementare la felicità. Questo è lo scopo. E abbiamo visto che visto che c'è una preparazione, c'è una sessione effettiva e c'è una conclusione alla pratica meditativa. La preparazione l'abbiamo vista principalmente. Si tratta delle sei pratiche preliminari all'interno della quale troviamo la pratica in sette rami. Poi abbiamo visto la sessione effettiva, brevemente, e abbiamo visto che ci sono il come condurre la sessione, nel senso che prima dobbiamo identificare gli argomenti, i vari punti, dobbiamo determinarci a non vagare, a non cambiare oggetto di meditazione all'interno della propria sessione, dobbiamo accertare gli argomenti e attraversarle nell'ordine, seguendo una sequenza determinata. Okay? E abbiamo visto che c'è una conclusione, e la conclusione si riferisce al dedicare le proprie virtù accumulate. In modo che non vengono sprecati il loro risultato non viene sprecato in maturazione diciamo in esperienze cioè uniche, e dobbiamo anche sigillarle cercare di riflettere quindi la persona le proprie virtù accumulate eccetera, tutto questo non ha un'esistenza vera, dobbiamo cercare di sigillarle in quel modo. E abbiamo visto anche cosa dobbiamo fare tra le sessioni di meditazione, tra una sessione all'altra. Abbiamo visto che questo tempo è molto importante perché la pratica meditativa al nostro livello cioè sarà 20 minuti la mattina, 20 minuti la sera, e il resto del tempo, quindi abbiamo questi 23 ore, okay, dove. Se non abbiamo un comportamento che è in risonanza, si dice in risonanza? Okay? Con quello che è stato contemplato, allora è impossibile fare dei progressi, okay? È impossibile. Quindi dobbiamo, durante il post meditativo, se mi posso esprimere in quel modo, cercare comunque di tenere la mente sotto controllo, pensando a quello che è stato, portando l'insegnamento alla mente, ma abbiamo visto anche. Cercando di trattenere le facoltà sensoriali. Cosa significa trattenere le facoltà sensoriali? Evitare il sorgere dell'afflizione, bloccando quindi l'attenzione mentale inappropriata, abbiamo visto che cos'è l'attenzione mentale impropriata. E l'altra cosa abbiamo visto anche, proteggere, se non siamo in grado di farlo, proteggere la generazione delle coscienze sensoriali. Okay? Visto che gli oggetti, le afflizioni che sorgono in relazione ai oggetti dei sensi, allora se non abbiamo una mente stabile o forte, che è l'antidoto non ancora generato, è meglio proteggere la mente di impegnarsi in vari oggetti. Okay? Quindi questo introduce agire con la vigilanza, c'è vigilanza, ok? Quindi, okay? C'è quindi la vigilanza nelle varie attività. Abbiamo visto anche la dieta è importante se vogliamo mantenere una mente chiara durante le sessioni meditative, e abbiamo visto anche cosa fare al momento di dormire, okay? E ci siamo fermati qui la settimana scorsa. Quindi in questa sessione cercherò di presentarvi quali sono i vari oggetti di meditazione. Sono quattro tipi di oggetti di meditazione. Di questi ci sono delle suddivisioni che hanno delle funzioni diverse, no? E quindi presenterò brevemente, cioè in un modo, cioè delle meditazioni particolari con delle funzioni particolari. Avete delle domande rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza? Io continuavo a farmi questa domanda, però. Ok. La posizione l'abbiamo vista, abbiamo la posizione di Vairocana in 7 punti, la trovate nel testo di Kamalashila, ok? Gli stadi della meditazione. E quindi entriamo adesso negli oggetti di meditazione. Abbiamo quattro tipi di oggetti di meditazione. Abbiamo gli oggetti di meditazione universale, oggetti di meditazione per purificare il comportamento, oggetto di meditazione per l'espertise, l'analisi, l'investigazione, okay? E oggetti di meditazione per purificare le afflizioni. Quindi rispetto agli oggetti di meditazione universale, abbiamo gli oggetti di meditazione universale sono gli altri 3 tipi di oggetto, però la classificazione è diversa, nel senso che all'interno degli oggetti di meditazione universale troviamo gli oggetti di meditazione che sono un'immagine discorsiva, un'immagine non discorsiva, limite dell'esistenza, okay, e l'ottenimento di uno scopo. Quindi, che cos'è un'immagine discorsiva e un'immagine non discorsiva? Per esempio, quando meditiamo o riflettiamo sull'impermanenza sottile, no? L'impermanenza sottile all'inizio, no? Quando viene realizzata a livello intellettuale, allora è un'immagine mentale, no? Sì, è una sorta di immagine mentale. Questa immagine è discorsiva. È discorsiva perché la mente si muove, analizza la natura di questo aspetto della realtà, okay? Quindi favorisce quello che viene chiamato l'ottenimento della visione superiore, no? Incrementare la capacità di penetrazione o di analisi della mente. Invece un'immagine non discorsiva viene utilizzata quando qualcuno vuole sviluppare la capacità di stabilizzazione della propria mente, okay? La concentrazione. Quindi la concentrazione all'interno di tutte le meditazioni dei stati del sentiero c'è un aspetto di analisi e di concentrazione. Però è buono anche di cercare di sviluppare la concentrazione separatamente, e ci sono possiamo scegliere degli oggetti che corrispondono alle nostre predisposizioni, alle nostre, cioè, a ciò che ci piace, non sono gli oggetti che ci piacciono di meditare o meno. Okay? L'importanza è che rispetto all'analisi, potete cambiare perché, anzi, tutti gli oggetti vanno analizzati, nel senso sono degli argomenti da analizzare e tutti questi argomenti vanno analizzati ancora, ancora e ancora. Invece, rispetto allo sviluppo della concentrazione, una volta che abbiamo scelto un oggetto, è meglio, cioè, non dovete più cambiare oggetti, perché altrimenti pochi progressi che sono stati fatti, sì, cambiate oggetti, dovete ricominciare da capo tutti questi progressi, tutto questo percorso. Quindi all'inizio, per esempio, quando si cerca di sviluppare la concentrazione, si prende un oggetto, okay? L'oggetto può essere, o possiamo avere possa essere qualcosa di visualizzato, possiamo prendere il respiro è abbastanza facile perché l'oggetto è grossolano, quindi quando si prende il respiro si prende il punto di contatto dell'aria con le narici, c'è una sensazione. Okay? E la mente si focalizza su questa sensazione e si contano i respiri, vedremo dopo in dettaglio questa cosa. Invece quando un oggetto viene visualizzato, di solito il migliore degli oggetti viene considerato come una rappresentazione del Buddha. Okay? L'oggetto visualizzato non dovrebbe essere più grande di un pollice, okay? Non più grande di questo, dovrebbe essere piazzato a più o meno 1,50 m, 2 metri. Okay? A livello dei sopraccigli, okay? E quindi e lì la mente dovrebbe fermare su questo oggetto. Allora all'inizio l'esperienza che tutti abbiamo è che la cosa va abbastanza bene, velocemente, giorni dopo giorni, abbiamo la sensazione di progredire, di avere chiarezza, okay? E di avere la mente che si calma. E poi dopo c'è una settimana, 2 settimane, certe volte può essere anche un mese, okay? Dipende delle persone, abbiamo la sensazione che stiamo facendo marcia indietro, che la mente sta degenerando, che la mente diventa molto più agitata di prima, no? E abbiamo la sensazione di perdere i progressi che abbiamo fatto. Infatti questo significa che la meditazione sta andando molto bene. Perché abbiamo appena incominciato a identificare il problema. Nel senso che tutta questa discorsività, che non era ancora resa manifesta alla mente, incomincia a apparire. La mente si interiorizza, però all'inizio tutta questa discorsività, no? Abbiamo molti livelli di discorsività, quella una molto grossolana, che è in grado di portarci via dell'oggetto, e un'altra invece, più sottile, come l'acqua si muove sotto il ghiaccio, no? Sono torrenti in montagna, no? D'inverno sono ghiacciati, ma l'acqua si muove sempre sotto. Quindi il secondo impatto che abbiamo la sensazione che abbiamo degenerato. Invece no, la mente si è interiorizzata e incomincia, cioè, tutta questa attività incomincia a diventare comincia a apparire, a diventare manifesta e il lavoro incomincia proprio a quel momento. Okay? Comincia il lavoro di calmare questo torrente, sì, c'è il torrente, okay? Di pensieri incomincia proprio adesso. Quindi no, di solito quello che fanno le persone è cambiano oggetti a quel momento. Pensano, ah no, questo oggetto non va bene, sto degenerando, quindi cambiano l'oggetto. Però invece dovrebbe continuare, dovrebbe mai perdere l'oggetto, mai cambiare oggetto, finché abbiamo attualizzato il calmo dimorare. Una volta che abbiamo attualizzato il calmo dimorare, allora l'impegno negli oggetti è istantaneo. Quindi l'esercizio non è più necessario. Okay? Però finché non abbiamo stabilità della concentrazione, vi ripeto, questo è ciò che riguarda lo sviluppo della concentrazione pura, l'oggetto non dovrebbe essere cambiato. Ok, sì, prendiamo gli oggetti che purificano il comportamento, è quello che principalmente ci interesseremo in questa sessione. Abbiamo 5 oggetti che purificano il comportamento. Abbiamo gli oggetti che purificano il comportamento che sono antidoto all'attaccamento, uno che è antidoto all'avversione, l'odio, uno che è un antidoto all'ignoranza, un altro che è un antidoto all'orgoglio e uno che un altro, e quindi il quinto che è un antidoto alla discursività, al troppa attività concettuale. Quindi allora è chiaro che dobbiamo comunque riflettere su questi vari oggetti, però vi ricordate che quando abbiamo trattato delle afflizioni abbiamo visto che ciascuno di noi ha un'afflizione predominante. Quindi l'enfasi a livello della pratica meditativa dovrebbe essere in relazione all'afflizione predominante. Quindi se l'afflizione è predominante, l'attaccamento, ok? Allora si dovrebbe riflettere, visto che in generale l'attaccamento, l'oggetto di attaccamento principale è il corpo degli altri, si dovrebbe riflettere su certi aspetti, ok? Invece se abbiamo l'avversione come afflizione principale, allora dobbiamo meditare sull'amore e sulla compassione. Se abbiamo come afflizione principale l'ignoranza o l'oscurazione, dobbiamo riflettere sul sorgere dipendente. Se abbiamo problemi di orgoglio, si dovrebbe riflettere sulla divisione dei costituenti come presentata nell'Abhidharma Kosha, no? Che si realizza che livelli di ignoranza siamo. E se invece abbiamo problemi di discorsività, senso che non riusciamo, tutti abbiamo problemi di discorsività, okay? Però per certe persone è estremo, non possono smettere di pensare, no? Quando sono confrontati a un problema, a una situazione, non possono smettere di concettualizzare, di pensare a quella cosa, no? Allora per queste persone è consigliato meditare sul respiro, okay? Come si medita sul respiro? Dobbiamo prima per prima assumere una posizione confortevole, la posizione migliore è quella di Varocciana in 7 punti, non la vediamo di nuovo, altrimenti basta essere anche su una sedia, basta avere la schiena dritta. Okay? Si dovrebbe quindi mettere l'attenzione, come dicevo prima, sul punto di contatto dell'aria con le narici. Non si dovrebbe cercare di controllare la respirazione, non si dovrebbe cercare di forzare, di controllare, di rallentarla, no? Solo diventiamo consapevole di questa attività. La respirazione va lasciata nel suo stato naturale e diventiamo solo consapevole di questa attività. Ci sono vari modi di operare, okay? All'inizio quello che potete fare e contare ogni inspiro e espiro. Okay? Quindi seguite, dobbiamo essere molto molto concentrati, molto attento a quando incomincia l'inspiro, tutto il processo dell'inspiro, quando l'inspiro si finisce, c'è questo c'è, a quel momento il movimento si è sospeso, poi inizia l'inspiro, quando incomincia tutto il processo dell'inspiro. Quando l'inspiro si finisce, di nuovo c'è un sospeso, l'attività si sospende e poi ricomincia questa cosa. Quindi bisogna essere, il respiro fa una curva, no? Una specie, una forma di curva, e dobbiamo essere quindi consapevoli, essere veramente al 100% durante tutto questo processo. Okay? Quindi all'inizio, la mente è distante in relazione al respiro, poi piano piano quando la mente si pacifica e si concentra, allora la mente fa uno con il respiro, cioè è come se forse la mente cavalcava il respiro. A quel momento l'inspiro si prolunga, diventa molto più lungo, la mente si pacifica e c'è un grande benessere che viene generato da questa esperienza, no? Perché per la prima volta la sensazione è come se fosse è la prima volta si usciamo la testa dell'acqua, no? Sì, tutta la nostra vita abbiamo passato la testa sott'acqua a respirare e per la prima volta si prende questo respiro, no? Quindi c'è una pacificazione. Quindi all'inizio dobbiamo quindi contare inspiro 1, espiro 1, inspiro 2, espiro 2, ok? Quindi durante l'inspiro contate 1, durante l'espiro contate 1, durante il secondo espiro contate 2, inspiro 2, 3, 3. Okay? Dopo potete, quindi questo va fatto 10 volte, okay? Fatelo per cicli di 10 volte, perché se è troppo poco la mente non ha il tempo di focalizzarsi, okay? E se è troppo lungo, dopo si fa senza l'attenzione, Quindi di solito 10 volte va bene. Quindi ciclo di 10 volte, poi ricominciato da... Poi potete scendere 9, 9, 8, 8, 7, 7. Il processo, questo processo ha come... sì, questo sviluppa la tensione, sviluppa la concentrazione, sviluppa la tensione e pacifica la discorsività mentale. Ma poi di questo ne avrete un beneficio anche nella vita di tutti i giorni, perché quello che fate, farete, lo farete molto più velocemente, sarete molto più efficace e sarete anche meno stanchi nella giornata, perché c'è molta energia che viene passata nell'attività concettuale, no? Tutto il giorno. Quindi alla fine della giornata siamo molto stanchi, soltanto dovuta all'attività concettuale. Soprattutto dopo, quando questa attività concettuale non è controllata e va a, in generale, andiamo sugli oggetti di attaccamento o sulle difficoltà, i problemi, di avversione, eccetera. Quindi la mente è sempre turbolente, ma nel modo, turbolente nel modo afflittivo, nel modo afflitto, no? Va a muovere ciò che non dovrebbe essere toccato, mosso, no? Quindi dopo ci sono le emozioni che sorgono, il stress, tristezza, cioè tutto quello che potete immaginare. Ok? Ok, questa cosa. Quindi sì, e questo andrebbe fatto per 10 minuti, no? Si potete farlo 10 minuti. Cioè 10 minuti la mattina, 10 minuti la sera, piano piano, no? Finché, allora, i due in generale, no? I due nemici della meditazione sono l'eccitazione, che è l'eccitazione, la mente che si sprofonda, la mente che si sprofonda. All'inizio, quindi la presa dell'oggetto deve essere ferma, ma non troppo. Okay? Ferma, ma non troppo. Se la presa dell'oggetto è troppo rilasciata, allora non avremo mai chiarezza e la mente piano piano si sprofonda e dopo il torpore sorge. Il torpore sorge. La mente intorpidita non è più una mente che può essere utilizzata. Non ha più chiarezza. È l'attaccamento automaticamente presente. Invece, e l'altro invece è l'eccitazione. Allora, l'eccitazione è esclusivamente rispetto agli oggetti di attaccamento. Poi abbiamo l'agitazione che va sugli oggetti neutro o d'avversione. Però il problema principale è l'eccitazione. Vedrete che quando la mente se ne va del suo oggetto è perché siete pensando a un oggetto di attaccamento. Cibo, vestiti, vacanze, ragazzo, ragazza, quello che volete, quello che volete. Quindi in generale è così. Allora, all'inizio siamo lì a cerchiamo di sviluppare questa concentrazione e la mente se ne va e non lo notiamo neanche che se n'è andata dall'oggetto. Quindi fa un giro e dopo, non so, 10-30 secondi ci accordiamo di questa cosa, quindi dobbiamo riportare la mente sull'oggetto. Quindi all'inizio è così, riportare l'oggetto di nuovo riportarlo, riportarlo. E piano piano potremo ridurre il tempo che mette la mente a accorgersi che se n'è andato. Okay? Questo si chiama l'introspezione. Due cose sono molto importanti nella meditazione, è l'introspezione e la memoria. Ok? La memoria che in questo contesto è la non dimenticanza dell'oggetto, okay? La non dimenticanza dell'oggetto. Quindi sviluppando la concentrazione svilupperete anche la vostra capacità di memoria. Okay? Poca concentrazione, poca memoria. Buona memoria, buona concentrazione. In generale funziona così, in generale. Okay? E l'introspezione è una specie di spia. C'è un angolo della mente che sta osservando cosa sta accadendo qua dentro, no? Se la meditazione sta andando bene, se c'è l'eccitazione, se c'è il torpore, se l'oggetto è mantenuto bene, se c'è chiarezza. Questo è il lavoro dell'introspezione. Un po' quando camminiamo nella strada, no? Siamo sul marciapiede in queste città dove ci sono macchine, molte persone che circolano, eccetera. Siete camminando sul marciapiede con un amico e anche se c'è questa conversazione, c'è comunque una parte della mente che sa a che distanza siamo dal marciapiede, quali sono le altre cose che ci arrivano incontro. Questa attività è secondaria, però siete consapevoli di questo. Okay? Tutta la vostra attenzione non è in guardare queste cose che sono intorno, no? L'attività principale è la discussione che abbiamo con questa persona. Però c'è questa attività mentale che è consapevole. È la stessa cosa nella pratica meditativa, no? L'oggetto principale è la non dimenticanza dell'oggetto e poi abbiamo l'introspezione che controlla se tutto va bene. Anche questo va sviluppato. Quindi l'introspezione e la memoria sono le due cose che vanno sviluppate per la meditazione. E le cose che vanno eliminate sono lo rilascio della presa, lo rilascio della presa, e l'eccitazione, verso gli oggetti. Per esempio, adesso anche se cerchiamo di meditare, eccetera, vediamo che non siamo in grado di sviluppare questi antidoti, facciamo pochi progressi rispetto al generare delle qualità. Questo è dovuto al fatto che non abbiamo concentrazione. Una volta che abbiamo la concentrazione, allora le cose diventano veramente possibili, penso almeno che le cose diventano possibili quando siamo in grado di focalizzare la mente per 3-4 ore su un oggetto, e la mente, ha eliminato questa separazione questa distanza tra l'oggetto, che viene è analizzato e la propria mente, allora i cambiamenti a livello sottile e profondo, accadono, questo non c'è dubbio. Ok, quindi abbiamo detto, no? Cicli di 10, cicli di 10, e all'inizio quindi uno per l'inspiro, uno per l'espiro, e poi potete solo contare uno per ogni ciclo, inspiro, espiro, uno, quando si conclude, inspiro, espiro, due, inspiro, espiro, tre, eccetera. Andate fino a 10, poi si scende, 9, 8, poi si riparte 10, non perdete il conto. Vedrete che perderete il conto anche all'inizio. La mente è così distratta che la concentrazione l'avremo per 5 secondi. Quando dico concentrazione, anche se vi pensate che no, potete far di meno, vedrete che la continuità della concentrazione è interrotta da pensieri. Quindi quello che cerchiamo di sviluppare è una continuità non interrotta. Questo è molto difficile. Quindi all'inizio avremo la mente che se ne va dell'oggetto, poi a un certo punto saremo in grado di mantenere la mente, ma vedrete che comunque anche se manteniamo la mente c'è sempre questa chiacchiera incessante, sempre presente. Quindi dopo il secondo lavoro è di farla finita, sì, con questa chiacchiera che è sempre presente. In questo modo dobbiamo attraversare 9 stadi mentali, si chiamano i 9 piazzamenti mentali per arrivare allo sviluppo del calmo dimorare, dove abbiamo la concentrazione perfetta. Concentrazione perfetta. Quindi sono 9 piazzamenti mentali. Il primo piazzamento mentale viene ottenuto quando abbiamo un'immagine chiara dell'oggetto, okay? Nel senso che siamo riusciti a costruire l'oggetto, e possiamo stare 1 minuto e mezzo, 1 minuto e mezzo sull'oggetto, 1 minuto sull'oggetto. Questo è il primo piazzamento mentale. Dobbiamo percorrerne 9 in quel modo. Quando arriviamo al terzo piazzamento mentale, non mi ricordo se è il terzo o il quarto, il potere della memoria è così sviluppato già che non possiamo più dimenticare l'oggetto per tutta la durata della sessione. È il quarto? Cosa Non mi ricordo, non ho la tabella, quindi comunque eventualmente nel futuro rientriamo nei dettagli su queste cose. Okay. Quindi non è necessario di presentare i 9 stadi perché dobbiamo cominciare col primo. Allora, se prendiamo un oggetto visualizzato, il migliore degli oggetti è l'immagine di un Buddha, ok? Quindi quindi dovremmo avere un'immagine a portata di mano, una statua. È il primo stadio, quindi è di osservare i dettagli di questa immagine, di questa statua, e dopo si riproduce mentalmente. Si riproduce mentalmente questa immagine, l'abbiamo detto, a 1,50 m. Un metro, 1,50 m sia davanti al livello delle sopracciglia, ok? Non più grande di questo, ok? Non più grande di questo. Di solito più l'oggetto è piccolo e più la concentrazione è potente. Allora vedrete che con questo, con un oggetto visualizzato, è molto più difficile, molto più difficile. Però i benefici sono maggiori, benefici sono maggiori, perché questo crea delle predisposizioni, delle buone predisposizioni dopo per le visualizzazioni nel tantra, eccetera, e dopo al momento della morte saremo in grado di richiamare l'immagine del Buddha molto facilmente. Questi sono dei benefici. Allora il respiro è un oggetto neutro, quindi se non abbiamo una motivazione corretta non c'è virtù accumulata quando si medita sul respiro. Non c'è nessuna virtù particolare. Okay? Invece l'immagine di un Buddha è per natura virtuosa, quindi c'è una virtù che viene accumulata, cioè la mente si potenzializza, c'è un accumulo di virtù semplicemente visualizzando l'immagine del Buddha. Quindi allora il modo di procedere, quindi si incomincia dall'alto, okay? Si visualizza, okay, il Buddha, quindi quando siamo arrivati al loto, si dovrebbe fermare a quel momento l'analisi. Quindi questa visualizzazione, okay, è un'analisi. Una volta che l'oggetto viene generato, la mente si ferma. Okay? La mente si ferma. Allora, qui la mente è troppo tesa, okay? Allora non possiamo sviluppare concentrazione. Okay? Quindi, il come mantenere, tenere nelle mani una tazza di tè ben piena, un bicchiere d'acqua ben pieno. Se siete troppo teso, ne mettete dappertutto, ok? E se invece è troppo rilasciato, può scivolare la cosa. Quindi c'è questo lavoro di capire qual è il modo, la presa giusta dell'oggetto di meditazione. Okay? Questo solo con la pratica lo potrete, si può comprendere questa cosa. Quindi si è troppo tesa, c'è l'agitazione, si è troppo stretta la presa, c'è l'agitazione, e si è troppo rilasciata, c'è il torpore. Quindi all'inizio non cercate di avere troppa chiarezza rispetto all'oggetto visualizzato. Se avete davanti a voi una specie di sagoma gialla che assomiglia al Buddha, che fa più o meno 2-3 centimetri, va bene, questo è l'oggetto sul quale vi focalizzate. E poi piano piano ci mettete della chiarezza. Due aspetti alla chiarezza: c'è una chiarezza nell'oggetto, okay, dal lato dell'oggetto, e c'è una chiarezza della presa dell'oggetto, della mente stessa, la mente è sveglia. Allora, il Buddha va visualizzato. Immaginate che è della luce pesante, okay? Pesante perché il fatto che pensate che l'oggetto è pesante, questo diminuisce la concettualizzazione, favorisce la stabilità della propria mente. Quindi luce pesante, è tridimensionale, non è pianto, è tridimensionale. Okay? Quindi piano piano, piano piano. Quindi anche questo va fatto. Allora, il modo di procedere con degli oggetti visualizzati come il Buddha, perché è molto difficile all'inizio, vi concentrate per 20 secondi, poi rilasciate la mente. Poi vi concentrate per 20 secondi, poi vi rilasciate la mente. E fate delle sessioni così all'inizio di 5-10 minuti, 5 minuti, 10 minuti, non di più. Vedrete che è più difficile. Quindi il primo stadio rispetto a un oggetto visualizzato, poi dell'acqua. Ci deve essere dei bicchieri da qualche parte. I bicchieri ci sono. Grazie. Non c'è problema, è normale. Aggregati contaminati, nella natura della sofferenza. Ok, quindi sì, è molto più, vedrete che è più facile attualizzare stabilità con respiro che con un oggetto visualizzato, però ci sono maggiori benefici rispetto a un oggetto visualizzato. I bodhisattva in generale i bodhisattva utilizzano l'immagine di un Buddha, nell'Amrim viene spiegato rispetto all'immagine di un Buddha, okay? Quindi poi vedete voi. Però per diminuire, se sentite che sono dei periodi anche nella nostra vita, sono settimane difficili, mesi difficili, giornate difficili, per calmare la concettualizzazione, allora andate all'inalazione e al respiro. Per calmare la concettualizzazione. Di solito quello che viene fatto è che l'inalazione e l'esalazione, cioè così, viene utilizzata sempre per 5 minuti all'inizio di una sessione di meditazione. Quindi prima di riflettere su un argomento dell'Amrim, prima di fare della concentrazione pura, okay, ci mettiamo per 2-3 minuti sul respiro, perché questo calma la mente, la mette in un stato neutro. E dopo possiamo lavorare a generare stati virtuosi e analizzare altre cose. Quindi di solito anche fino a 21 si va, okay? Si va fino a 21 e poi si passa all'argomento effettivo o alla sessione effettiva. In generale si fa così. Come dicevo prima, i grossi problemi che incontreremo sono l'eccitazione e il torpore. Quindi dobbiamo conoscere degli antidoti per questo. Okay? Allora, la luce, il livello di luce nel posto di meditazione agisce. Okay? Non meditate in posti scuri, perché automaticamente la mente si sprofonda. Okay? Non meditate in posti troppo caldi, altrimenti la mente si sprofonda. Okay? E anche vedrete dopo che anche il livello al quale mettete questa immagine del Buddha ha un'influenza sull'attività discorsiva della mente. Quindi se avete problemi di discorsività, la mente molto discorsiva, potete abbassarlo e andare fino all'ombelico. L'ombelico. L'ombelico. Ok? La mente si calma. Okay? Se invece avete problemi di torpore, dovete riconoscere anche la vostra mente, allora lo potete alzare a livello delle sopracciglia. Quindi sono tutti questi trucchi che dovete capire quello che vi corrisponde. Quando l'eccitazione sorge e che non riusciamo a calmare la mente, allora semplicemente modificando la posizione, okay, o aprendo leggermente un po' più gli occhi, non chiudete mai completamente gli occhi quando meditate. Aprendo un po' più gli occhi, ok? Sì. Allora, sì, abbiamo problemi di discorsività, bisogna calmare la mente. Per calmare la mente bisogna utilizzare la contemplazione dell'Amrim. Quindi a quel momento, quando questo si tratta, utilizzate questi antidoti quando fate le sessioni di sviluppo della concentrazione, ok? Allora, per calmare la mente dovete riflettere sulla sofferenza esistenza ciclica e sulla morte e l'impermanenza. Questo calma la mente automaticamente. Uom. Quindi se non abbiamo addestrato la mente con queste contemplazioni della sofferenza esistenza ciclica e della morte e l'impermanenza, allora non avremo la capacità di calmare la mente quando se ne va un po' dappertutto, che è molto agitata, non avremo la possibilità di calmare sta mente. Nello stesso, quindi di solito si dovrebbe quindi a quel momento lasciare l'oggetto di concentrazione, calmare la mente con queste contemplazioni per 5-10 minuti e quando è calma di nuovo, allora si riprende l'oggetto di concentrazione e si continua di nuovo a lavorare sulla concentrazione. Questo è il modo di procedere. Se invece la mente si sprofonda, abbiamo problemi di torpore e non riusciamo a ripristinare la chiarezza della mente, Allora dobbiamo pensare a qualcosa che ripristina la mente, quindi questa è la preziosa rinascita umana, meditazione sulla preziosa rinascita umana o meditazione sul proprio maestro, la devozione al maestro. Okay? Questo ripristina la chiarezza della mente, ridà del tonic alla mente. Quindi dobbiamo conoscere automaticamente, vedete che qui dovete conoscere anche il modo di riflettere su queste altre cose, altrimenti non abbiamo gli antidoti per il torpore e l'agitazione. Okay? E sì, anche quando state meditati in quel modo, non riuscite, allora terminate la sessione, è meglio di finire la sessione, interrompere la sessione, altrimenti diventate troppo teso, avrete dei disturbi delle arie e dopo ogni volta che vedrete il cuscino di meditazione avrete voglia di andare nell'altra parte, questo non lo vogliamo. Quindi andate, fate un giro, mettetevi dell'acqua sul viso per ritrovare un po' questa cosa, okay? E dopo potete tornare alla sessione. Quindi questo era abbiamo visto quindi il respiro, abbiamo visto anche il modo di sviluppare della concentrazione. Quindi vi ridico, l'importante è dimorare sull'oggetto, ok? E cercare di diventare consapevole del giro vagare della mente e subito riportarlo sopra. E con il respiro piano piano si guadagna della concentrazione. Rispetto all'avversione, abbiamo visto all'avversione, dobbiamo meditare sull'amore, l'amore e la compassione. Avevo presentato brevemente l'altra volta. Sì, questa è una meditazione molto facile, dà dei risultati, cioè potete sperimentare qualcosa, non c'è bisogno di aspettare 10 anni prima di... Quindi ve la rispiego velocemente, no? Quindi vi sedete, meditate un po' sul respiro per calmare la mente, poi davanti a voi pensate che ci sono delle persone che vi sono molto care, no? Persone per la quale è molto facile di avere lo slancio di amore. Amore in questo contesto è il desiderio che la persona sia felice, che la persona ottenga la felicità. Se vogliamo identificare un'emozione, è quando per esempio vedete dei cuccioli, no? Ah sì, questo ha, ok? O quando vedete dei bambini belli, no? Di 3-4 anni, belli, allora, o dei cuccioli, allora c'è questa emozione, no? Questo è l'amore, del quale parliamo in questo contesto. La compassione invece, sì, la vogliamo identificare, è quando immaginate o vedete qualcuno che vi è molto caro e lo vedete che sta sperimentando della sofferenza. Per esempio, sono proprio male, i propri genitori, no? In ospedale con dei tubi, delle cose del genere, oh, subito, no? C'è questa mente, no? Che no, non sopporta il percepire la sofferenza dell'altro. Questa è la compassione. L'equanimità, se vogliamo identificare l'equanimità a livello esperienziale, è quando siete stanchi, vi sdraiate. Quando andate a dormire la sera, siete stanchi e vi sdraiate. Cioè questa è l'equanimità. E invece la gioia, perché qui stiamo vedendo i quattro incommensurabili, la gioia è quando per esempio alla porta della vostra casa vedete degli amici molto cari, non avete visto da tanto tempo, c'è questa gioia. Questi sono i quattro incommensurabili punto di vista dell'emozione, no? Allora, il meditare sull'amore come si fa? Davanti si mette sul respiro per calmare il tumulto e davanti a sé si visualizza una persona che ci è molto cara, no? Ci è molto cara. E cerchiamo di identificare questa emozione, quindi questo sentimento di amore a livello del cuore, no? E si pensa, no? Come sarebbe fantastico, bello, sì, questa questa persona aveva la felicità, questa persona poteva essere felice. Pensate, se non riuscite a generare questa cosa così, pensate a quanto nella sua vita questa persona è priva di felicità. State attento che non diventa una meditazione sulla compassione, perché qui siamo meditando sull'amore, no? Vedete che nella vita di questa persona così c'è così poca felicità, cioè non c'è. E quindi generate questa sensazione, questo pensiero, no? Possa questa persona avere la felicità e le cause della felicità, possa questa persona essere felice, serena, felice, no? E a quel momento, quindi, avete questa sensazione a livello del cuore. E visualizzate questa mente di amore nella dimensione di una pallina di colore gialla, no? Questa pallina di colore gialla. Identificate che questa è la vostra mente di amore e questa pallina di colore gialla cresce e riempie tutto il vostro corpo e tutta la vostra mente. Tutto il vostro corpo, la vostra mente è completamente colma di questo pensiero di amore, no? Pervade tutta la vostra mente, il vostro corpo e va a toccare questa persona, no? Immaginate, quindi davanti abbiamo queste persone per le quali vi è molto facile, no? Di avere amore, come i propri figli, i propri genitori, i propri amici, compagni, eccetera, ok? E pensate che quando questa mente di amore va a toccare queste persone sperimentano la felicità, no? I loro problemi sono finite, sperimentano serenità, no? Quelli che soffrono di solitudine non soffrono più di solitudine, cioè c'è la felicità, felicità, okay? E poi quindi allargate, dopo ci sono le persone con le quali che sono indifferente, che incontriamo nella vita di tutti i giorni, ma non abbiamo né una mente di, non li consideriamo né come degli amici cari, né come dei nemici, semplicemente sono lì. Quindi anche queste persone, pensate che anche loro hanno il diritto alla felicità, anche loro sperimentano, hanno poca felicità della loro vita. Quindi quando il vostro amore tocca queste persone, no? Anche loro sperimentano pura felicità, sono completamente soddisfatti, colmi di serenità, di felicità. E poi pensate alle persone con le quali avete delle difficoltà, nella vita, nel lavoro, eccetera. Cioè, e pensate che queste persone, anche loro, sperimentano sofferenza, che la loro attitudine ai nostri confronti è semplicemente dovuta a delle cause, delle condizioni, che i loro comportamenti è il risultato del loro stato agitato, che cerca il benessere, ma sono confusi, eccetera. Quindi anche queste persone includetele nel vostro amore, no? E quando quindi questa luce gialla va a toccare queste persone, anche queste persone sperimentano la felicità, no? E in quel modo cercate cioè si espande, no? Cioè, c'è tutto il paese, c'è tutta la regione, tutta la provincia, cioè tutto il mondo, tutto l'universo, e alla fine includete tutto l'universo in questo pensiero di amore. Includete tutti gli esseri senzienti, tutto l'universo in questo pensiero di amore. E qui, cioè, questo è l'oggetto di concentrazione a quel momento, no? Prima è tutta una cosa analitica, ok? E adesso invece la mente si ferma e dimora in questa cosa, ok? E quindi ovviamente quando perdete lo perderete, quindi op, si ricomincia da capo. C'è la persona, felicità, poi sono quelli che siamo indifferenti, poi ci sono gli altri, poi si allarga, op, e si dimora, ok? Questo è il modo di meditare sull'amore, no? È un modo, cioè, facile. Piano piano, con la familiarità, con questa attitudine, quando avrete identificato, okay, la mente di amore, avrete familiarità con farlo sorgere, allora non potete raccorciare, come si dice? La contemplazione, no? Si può anche raccorciare. Dopo saremo in grado di generarla, artificialmente, pensandoci, ma senza avere il bisogno di fare tutta questa contemplazione, di riflettere a quante queste le persone a quante sperimentano difficoltà per far sorgere mente di amore, perché adesso, no, per far sorgere una mente di amore a confronto degli altri, dobbiamo riflettere alle difficoltà che che sperimentano queste persone, no? Ecco perché è molto importante anche da questo punto di vista riflettere sulla sofferenza desueta ciclica, perché altrimenti non avremo possibilità di guardare gli altri in un altro modo. Adesso quando abbiamo delle problemi con delle persone, l'unica cosa che vediamo sono il danno o il disturbo che creano queste persone a noi. Non allarghiamo la prospettiva del capire ma perché, perché hanno questo comportamento, da che cosa si manifesta, qual è la causa di questo comportamento e qual è l'esperienza effettiva, no, di queste persone, quali sono le loro difficoltà nella vita di tutti i giorni o da tempi senza inizio. E quindi è molto importante, anche da questo punto di vista, di avere alle spalle un po' di contemplazione sulla natura di sofferenza desueta ciclica, perché si realizza che gli altri sono in stati di sofferenza maggiore in paragone a noi. Quindi in quel momento diventa più facile di sostituire questa versione, di mettere invece il pensiero di amore e di compassione al posto. Quindi questo, meditazione sull'amore. Quindi questo è un oggetto di meditazione che purifica il comportamento, okay? Purifica il comportamento dell'odio, movimenti mentali dell'odio, odio, avversione, collera è la stessa cosa, che okay? È solo l'amplitudine che cambia. E poi abbiamo l'attaccamento. Qui l'attaccamento, non so se siete pronti, okay? Perché in generale l'attaccamento non lo vogliamo eliminare, ok? Allora, per eliminare l'attaccamento, principalmente si riflette su due cose. Principalmente si riflette su... Allora, abbiamo attaccamento perché? Uno, bisogna capire che, uno, perché l'oggetto viene percepito come attraente del suo proprio lato, e secondo, abbiamo un'esagerazione degli attributi di piacevolezza dell'oggetto. Ok? È un'esagerazione. Quindi la mente sovraimpone degli aspetti. Quindi quello che bisogna fare nel caso dell'attaccamento è andare a vedere se effettivamente l'oggetto è così piacevole, se l'oggetto è così nella sua natura piacevole, è nella sua natura bello, attraente. Okay? Perché abbiamo attaccamento per tutto ciò che viene percepito dalla nostra mente come attraente, come piacevole. Cibo, odori, suono, sagome, colori, aspetti tangibili. Da quando la mente lo percepisce come piacevole, c'è l'attaccamento. Per noi, esseri del rame del desiderio, l'attaccamento è quasi onnipresente. Come dicevo l'altra volta, no? È possibile passare dei giorni senza avversione? Possibile. Cioè, non è tanto difficile. È estremamente difficile di passare una giornata senza attaccamento. Penso che non mi è mai successo. Molto difficile, anche di passare un'ora senza attaccamento, che si manifesta a un livello o un altro. Ovviamente qui bisogna anche prendere in considerazione i vari livelli di attaccamento. Non vi parlo dei slanci quando volete saltare su qualcosa o qualcuno, okay? Ma quelli molto più... quando la mente ricerca un contatto, può essere con sapore, con cibo, con una bevanda particolare, quando avete caldo, quando fa caldo avete sete, c'è la mente boom, che si muove, no? Quindi è molto difficile. Allora, in generale noi siamo legati al samsara, principalmente, lo sappiamo, dovuto alla concezione di vera esistenza, ma anche dovuto all'attaccamento. Attaccamento è un grosso problema, la brama. E in particolare siamo bloccati nel rame del desiderio, perché c'è anche il rame della forma, il rame del senza forma, ma noi siamo proprio nei bassi fondi dell'esistenza ciclica, okay, dovuto all'attaccamento. Okay? Abbiamo attaccamento, infatti si chiama rame del desiderio perché ricerchiamo principalmente, dovuto a due movimenti mentali, che ricerca il cibo e l'unione sessuale. Okay? Questo ecco perché siamo nel rame del desiderio, ecco perché non riusciamo a attualizzare dei stati meditativi. la concentrazione. Perché parlavamo prima, no, di Cineo, del calmo dimorare, no? La concentrazione perfetta. La concentrazione perfetta di Cineo è una mente non più del rame del desiderio, ma ha le qualità di una mente del rame della forma. Significa che è separata dagli oggetti di attaccamento, cioè è separata dai livelli di attaccamento al rame del desiderio, o almeno le aresi non manifesti. Le aresi non manifesti. Quindi per attualizzare questa concentrazione bisogna eliminare l'attaccamento, almeno quello grossolano, del rame del desiderio. E quindi per calmare questo attaccamento, l'oggetto principale, okay, è il corpo degli altri. In generale è questo che ci dà problema. Se guardate nella vita di tutti i giorni, molta sofferenza è dovuta all'attaccamento. Infatti la più grande sofferenza è dovuta all'attaccamento, non dovuta all'avversione, no? Tutti questi problemi di relazione, eccetera, eccetera, genera molta, molta sofferenza, no? E allora, per calmare l'attaccamento al corpo degli altri, bisogna riflettere su che cos'è il corpo degli altri, eh? E allora abbiamo tre meditazioni possibili per questo. Una che viene presentata nel Vinaya, quindi queste sono state contemplazioni presentate dal Buddha. Okay. Allora vi ripeto, ve le presento, perché queste sono meditazioni per le persone che hanno riconosciuto l'attaccamento come essendo la fonte di sofferenza e che vogliono guadagnare libertà rispetto all'attaccamento. Per altri potrà sembrare molto strano quello che stiamo dicendo qui. Abbiamo quindi la meditazione sui scheletri, la meditazione sulle 36 sostanze impure e la meditazione sul cadavero. Queste sono le contemplazioni per calmare l'attaccamento. La meditazione sui scheletri, questa è presentata negli insegnamenti del Vinaya, dove il meditatore visualizza a livello delle sopracciglia. Visualizza che c'è un pezzo di. Si toglie mentalmente un pezzo di carne, no? E percepisce il suo. Come si chiama? Teschio, ok? Il colore bianco. E piano piano espande con la mente, si toglie tutta la carne, no? E scopra il suo scheletro, ok? Il suo scheletro, e dopo espande questa visione. Visualizza che la terra è coperta di scheletri, e dimora in questa contemplazione, e alla fine si riassorbe tutto e si rigenera il corpo e si finisce da questo punto. Si fa così, si procede in quel modo, si espande, okay, e si ritira, okay, si espande e si ritira, ok? Questo pacifica l'attaccamento. Altrimenti abbiamo le 36 sostanze impure. Quindi 36 sostanze impure sono state spiegate, menzionate dal Buddha, nel Sutra della nuvola di gioielli. Okay? Le trovate anche nel Compendium dei Sutra di Nagarjuna, dove letteralmente ho preso la citazione. Nagarjuna dice, no? Si dovrebbe contemplare o meditare il carattere repulsivo del corpo come consigliato nel Sutra del Cumulo dei Gioielli. Ok, allora se volete vi do le 36 sostanze. Quindi il meditatore fa questo, no? Memorizza questa lista delle 36 sostanze e con la mente le va a toccare. Ok? Le va a toccare. Finché, allora, lo fa nell'ordine progressivo e degressivo, cioè ordine, cioè diretto e indiretto, finché ce n'è uno dove sente che ha un impatto sulla sua mente, no? E a quel momento sviluppa concentrazione utilizzando questa visualizzazione, quindi utilizza la concentrazione. Quindi questa meditazione sulle 36 sostanze può essere utilizzata in due modi: o per generare il non attaccamento, che si oppone all'attaccamento, e sostanzialmente utilizzare quella visualizzazione per generare concentrazione. Okay? Quindi qui dobbiamo fare attenti con queste meditazioni perché non vogliamo generare avversione. Non è assolutamente questo lo scopo. Lo scopo non è di generare avversione, ma semplicemente di mantenere la mente libera dell'attaccamento, generando uno stato che viene chiamato non attaccamento. Vi ricordate l'attaccamento l'abbiamo paragonato, no? Cioè, l'attaccamento è una mente che si muove verso l'oggetto, ricerca il contatto e non vuole essere separata. Okay? Quindi è come tenere qualcosa in quel modo, no? Quel modo, invece che semplicemente potrebbe essere tenuto in mente così. Una mente che penetra il suo oggetto e non vuole essere separata. Okay? Esagera gli attributi. Quindi visto che l'oggetto principale di attaccamento per gli esseri nel rame del desiderio è il corpo degli altri, andiamo a lavorare su sull'oggetto il più grossolano, perché una volta che l'attaccamento per questo è controllato, okay, allora l'attaccamento per il resto è secondario. Secondario. Okay? Quindi il sutra dell'accumulo dei gioielli dice, allora, il corpo sono i capelli, i peli, le unghie, i denti, la sporcizia, l'impurità, la pelle, la carne, le ossa, Tendini. i tendini, i nervi, i reni, il cuore, la milza, i polmoni, gli intestini, il colon, la vescica, lo stomaco, il contenuto dello stomaco, l'addome, il fegato, gli escrementi, le lacrime, il sudore, il muco, il moccio, i grassi liquidi, il siero, il midollo, i grassi, la bile, la flemma, il pus, il sangue, il cervello, le meningi, l'urina. Poi il Buddha aggiunge, no? Queste cose il Bodhisattva li considera naturalmente e questo facendo pensano, se i puerili, ai puerili sono noi, sono gli esseri che non hanno realizzato il modo di esistere dei fenomeni, sono i puerili perché accettano quello che vedono, pensano che il modo di apparire corrisponda al modo di esistere, quindi sono dei puerili. Quindi siamo dei puerili e dice, se i puerili, gli stupidi, penso ancora noi, senza chiarezza né saggezza, conoscevano queste cose, stessi essi non svilupperebbero il pensiero di attaccamento. È bisogno di menzionare la persona intelligente per natura? Quindi lì andiamo semplicemente a questo corpo, no? Che ci appare così attraente, no? Che vogliamo possedere, no? Il corpo degli altri vogliamo possedere, certo, perché ci appare come qualcosa di bello, anche di puro, no? Qualcosa di bello, di attraente. Andiamo semplicemente a vedere qual è la sua natura. Quindi pensate al corpo, si pensa al corpo, cioè alla pelle, quindi si analizza la pelle che si sembra così piacevole, no? Infatti si gratta, si vede che cade, no? Sta pella, la pella cade, no? Cioè, si gratta, grattate un po', la pelle cade. Se non ci laviamo per un paio di giorni, cominciate a cioè, cose che cadono dappertutto. La pelle non è così. I capelli noi abbiamo una siamo, come si dice? Cioè, molto importanti i capelli. Non trovo la parola, trovo la parola. Cioè, sono molto importanti, vedete un po', andate al supermercato, quanti shampoo, dopo shampoo ci sono, cioè, è incredibile, sempre che le mangiamo, queste cose. Con i frutti, senza frutta, con le vitamine, senza vitamine, cioè, con profumo, senza profumo, con la camomilla, con l'olio, cioè, è incredibile. Cioè, per dei capelli, okay? I capelli si erano così belli, no? Cioè, prendete uno dei vostri capelli, mettetelo nel cibo e già il cibo non lo volete più toccare. Questo è il segno che queste cose lo sappiamo a un certo livello, no? Che non sono così pure, che non sono così belle e attraenti. Però c'è la mente, cioè, ha delle si muove all'interno di un fratendimento completo, no? Un fratendimento completo. C'è un testo molto interessante, no? C'è un testo di un monaco, di monaco Theravada, dove allora, i principianti nel Theravada per 2 anni meditano su queste cose. Per 2 anni, l'unica meditazione che fanno sono i peli e i denti. I peli e i denti. I denti sono questi pezzi di ossa piantata nella carne, no? Si bucano, terribile. Comunque, meditano 2 anni su di questo e sviluppano un'ossessione, era questa la parola che cercavo. Siamo ossessionati con i denti e i capelli, noi esseri umani. I denti e i capelli è una cosa particolare. E quindi loro meditano quindi per 2 anni su che cosa, che sono, quali sono i capelli, quali sono i denti, che sono gialli, con la placca dentale, con i buchi, è incredibile, no? Quali sono i denti quando ci pensate veramente. E in questo mi ricordo aver letto, c'è un'immagine incredibile, no? Per i capelli. E lui c'è questo monaco che dice, si chiama Buddha Dasa, Buddha Gosha, Buddha Gosha. Sapete, sul composto, apparentemente in certe zone del globo, sul composto in Sri Lanka, perché vedete Sri Lanka, sono queste erbe molto lunghe che crescono sul composto, no? Queste erbe molto lunghe che crescono, sono fine lunghe. E lui dice, esattamente come queste erbe crescono sul composto, i capelli crescono sul corpo. Perché il corpo viene paragonato, no? A un sacco, un sacco di, che contiene, un sacco di peli che contiene delle sporcizie e ci sono 9 orifici dalle quali queste sporcizie sorgono continuamente, vari liquidi che sorgono continuamente. E loro meditano su di questo, cioè, in un modo molto intenso. C'era anche un'aneddota all'epoca del Buddha, no? In un villaggio c'era una donna estremamente bella, no? Era conosciuta nella regione per essere estremamente attraente, no? E un giorno c'era una discussione col marito e cioè qualcosa accade e se ne va a fare un giro, no? Arrabbiata, se ne va a fare un giro. Era anche molto orgogliosa della sua bellezza. Si incrociano con un monaco che controllava la sua mente, no? E questa donna, quando vede il monaco, gli fa il suo più bello sorriso, no? Possibile. E il monaco, impassibile. E dopo incontrò il marito che stava correndo dietro alla moglie. E dice, ma scusa, non hai visto una donna molto bella così, con i capelli, bla bla bla, vestita? Lui dice, ho visto dei denti passare. Proprio, cioè, un altro livello, no? Un altro livello. Cioè, ho visto dei denti passare. Sì, quindi si vediamo veramente che cos'è il corpo, no? Vediamo le unghie, no? Dopo una giornata, la sostanza che abbiamo sotto le unghie, no? Nelle orecchie, tutte queste cose. Vediamo che il corpo non è cioè, sotto i bracci, cioè, non è per natura qualcosa di pulito, non è qualcosa per natura, qualcosa di attraente, non è bello, okay? Non è così, questa è la realtà. Quindi invece abbiamo questa sovraimposizione. Perché abbiamo questa sovraimposizione? Perché abbiamo questo problema? Perché per tempi senza inizio, per un lungo periodo di tempi, abbiamo associato questo con piacere e felicità. Allora, cioè la mente va sull'oggetto, la mente si muove verso l'oggetto perché ha associato questo oggetto con piacere e felicità. Quindi per disfare okay? Questa associazione dobbiamo far vedere alla mente che quell'oggetto non è nella natura della felicità, non è nella natura della bellezza e della purezza. E piano piano la mente lascia la sua presa, no? Quindi ecco perché abbiamo queste meditazioni. Quindi non è che vogliamo diabolizzare il corpo, eccetera, eccetera. Semplicemente andiamo a guardare per quello che è, per quello che è. Poi c'è l'invecchiamento, non parliamo neanche di questo. Quindi è guardare le cose come sono, no? Togliete, guarda i capelli, no? I capelli, se passiamo a 3-4 giorni, andiamo fino a 5 senza lavarsi, siamo inavvicinabile, inavvicinabile, no? I denti gialli, cioè, le unghie sporche, cioè, le orecchie, i capelli grassi, siamo inavvicinabile. Quindi questa è la natura del corpo, eh? Questa è la natura del corpo. Invece noi abbiamo questa sovraimposizione ignorante che il corpo è nella natura della felicità e nella natura del piacere, no? Quindi per guadagnare della libertà, perché è questo che si tratta, no? La nostra mente adesso non abbiamo, non controlliamo, è la mente che ci controlla, in particolare l'afflizione mentale. Vediamo qualcosa che ci appare al nostro karma, no? Come piacevole, e la mente, vroom, e dopo, una volta che la mente è lì, è molto difficile di riguadagnare questa tranquillità e questa serenità, questa libertà. Non abbiamo libertà in rispetto a queste attività mentali. C'è l'attività mentale che si muove verso un oggetto e la pace, c'è la pace tra virgolette, o diciamo, l'esperimenteremo soltanto quando avremo soddisfatto l'afflizione mentale. È solo dopo aver soddisfatto l'afflizione mentale che la mente per poco tempo guadagna un po' di soddisfazione, di tranquillità, ma per poco tempo, perché dopo ci sono tutti gli altri problemi che sorgono. Quindi quello che vogliamo è riguadagnare dell'autonomia, della libertà rispetto a queste attività mentali. E si parla della liberazione, no? Perché adesso non siamo liberi, non abbiamo libertà rispetto all'afflizione mentale, se ci sono gli oggetti, e boom, le afflizioni sorgono. Semplicemente perché abbiamo delle coscienze sensoriali. Vi ricordate, l'abbiamo visto quando abbiamo meditato sulla sofferenza della nascita. Una delle suddivisioni è che la nascita è sofferenza perché è dovuto alle coscienze sensoriali, c'è l'incontro con gli oggetti e quindi c'è l'incremento delle afflizioni. Quindi queste meditazioni hanno come scopo di pacificare le afflizioni per guadagnare della libertà, per guadagnare della serenità, della pace. Vogliamo essere tranquilli. Cioè, l'attaccamento è sempre a qualcosa di piacevole, no? Cioè, ottenere l'attaccamento è piacevole soltanto se c'è soddisfazione rispetto all'attaccamento. Perché se non c'è la soddisfazione rispetto all'attaccamento, l'attaccamento non è piacevole, anzi è qualcosa che crea molta sofferenza, l'impossibilità di ottenere l'oggetto di attaccamento o la separazione dall'oggetto di attaccamento, non penso che sia veramente felicità. C'è felicità quando viene soddisfatto, quando viene seguito, quando viene seguito. È che riusciamo a soddisfarlo questo attaccamento. No? È come dicevo l'altra volta, no? Questo è Nagarjuna, mi sa che dice questo, no? È come quando abbiamo l'urticario, cioè no? E le zanzare vengono a pungere, quindi abbiamo, come si chiama? Il prurito, ok? È un sollievo di grattarlo, è un sollievo, ma non sarebbe meglio di non averlo? E questo è esattamente il lavoro, esattamente l'afflizione mentale, no? L'afflizione mentale, come l'attaccamento, sempre a qualcosa di piacevole, no? È piacevole perché dobbiamo correre dietro, lavoriamo per l'attaccamento per soddisfarlo, ma non sarebbe meglio di non averlo? C'è la mente tranquilla, serena, passano gli oggetti, tranquilla. Quindi se vogliamo ottenere questa serenità, no? Dobbiamo pacificare piano piano questi vari sì, questi sorgono come un vulcano, no? L'attaccamento, pacificarlo, e si pacifica meditando su queste cose, meditando sulla vera natura del corpo, si pacifica l'attaccamento rispetto al corpo. Solamente non attaccamento, non è, vi ripeto, non è avversione per il corpo degli altri che vogliamo, cioè, semplicemente non attaccamento, no? Ok, quindi c'è questo. L'altro è il cadavero. Allora, per noi è più difficile meditare sul cadavero perché non abbiamo accesso ai cadaveri. Invece in India, all'epoca, i monaci andavano a meditare nei cimiteri. I cimiteri no, i cadaveri all'aperto, questi non erano i cimiteri prima che venissero bruciati. In certi paesi, mi sa che sia in Thailandia o in Sri Lanka, i monaci comunque hanno accesso alla morgue negli ospedali. Possono andare lì a guardarle. Rispetto al corpo possiamo avere attaccamento per il colore del corpo, perché abbiamo predisposizioni varie, no? A certi gli piace il colore chiaro del corpo, a altri gli piace il colore scuro del corpo. Questo è l'attaccamento rispetto al colore. Poi abbiamo un altro aspetto da curare, è la sagoma, quindi a certi piace il magro, a altri meno magro. Okay? C'è la sagoma, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo curare l'aspetto di sagoma del corpo e c'è anche l'aspetto del contatto, l'aspetto tattile del corpo, okay? Per quale abbiamo tre tipi di attaccamento per tre tipi di aspetto rispetto al corpo: colore, sagoma e aspetto tangibile, okay? Per il corpo degli altri. E quindi avremo 8 contemplazione per curare, per calmare questi movimenti mentali. Per il colore abbiamo quattro contemplazioni che sono l'osservare i vari livelli di decomposizione di un cadavero. Quindi l'attaccamento sono i vari livelli, vari stadi di decomposizione. Al primo abbiamo l'attaccamento per il colore, uno dovrebbe meditare sulla la persona che ha un corpo di colore blu, okay? Qui non è un blu azzurro, okay? È il blu della carne che sta andando via, che durante la notte se ne va, quindi quel colore è un blu repulsivo. Quindi adesso abbiamo Google, quindi simpatico Google, potete trovare quello che volete su Google. Poi c'è il colore, un altro livello, il colore nero. Quindi questo è un stato più avanzato della putrefazione, nero. Poi dal nero passa un rosso molto molto molto brutto. Sì. E dopo c'è lo stato dove il colore è fuzzy mold, fuzzy mold. Moisissure, moscia, stato di moisi completamente se vedete, funghi, cioè, non so che, no, non tiene più, non perde la sua, sì, la sua consistenza, è moscio, non si dice così in italiano? Moisi? Sì, moscio, ok, questo è per il colore. Quindi questo è il corpo, sono i passaggi del corpo. Per la sagoma si dovrebbe meditare il corpo, allora questo si fanno con, si prende, non si prende un corpo a così, si prende il corpo della persona per la quale abbiamo attaccamento, nei tutti i casi, ok? Si prende il corpo della persona per la quale abbiamo attaccamento e si medita sulle sostanze impure, sui capelli, sui denti, sulla saliva. La saliva, per esempio, no? La saliva, cioè, si prendete del cibo, e che mettete un po' di saliva sopra, non lo volete neanche più mangiare, però ci abbracciamo, c'è sempre un problema. A quel momento non sempre un problema perché c'è l'attaccamento che è manifesto. Quindi quando l'attaccamento è manifesto, è un'esagerazione degli aspetti piacevoli, ma anche un'eliminazione degli aspetti spiacevoli. Vengono completamente occultati. E non è un problema lo scambio di saliva a quel momento. Però, sì, su un piatto ci mettete un po' di saliva, cioè, 10 minuti prima non era un problema. Non vedo perché dovrebbe essere un problema adesso. Anche i peli. Prendete un pelo, pum, lo mettete su un cibo, no? Cioè non lo volete più toccare. Sì, ho un pezzo di cibo, lo mettete in bocca, lo riprendete, lo tirate fuori dietro. Cioè, vedete a che livello la nostra mente, no, funziona, no? Quali sono le contraddizioni che che esistono nella propria mente. Ok, quindi per la sagoma, allora per la sagoma dobbiamo contemplare sul corpo che è parzialmente mangiato dai predatori, tipo avvoltoi, cose del genere, no? Parzialmente devorato. Interessante. È la sesta contemplazione, quindi allora abbiamo visto, abbiamo quattro livelli di contemplazione per il colore e due per la sagoma. Uno è parzialmente devorato, e l'altro è smembrato. Smembrato. Okay? Queste sono le due contemplazioni per attaccamento alla sagoma. Poi per l'aspetto tangibile abbiamo due contemplazioni per l'aspetto tangibile. Uno è l'attaccamento, quindi si prende il corpo della persona per la quale abbiamo attaccamento, okay? E si visualizza che questa persona ha il corpo divorato dai vermi. Lo stanno mangiando, sono dei vermi. Maggots. Non c'è una parola speciale. Ok, va bene. Ok. E allora, questa è la seconda contemplazione per l'aspetto tangibile, è di riflettere visualizzare, meditare il corpo delle persone per le quali abbiamo attaccamento come un scheletro tenuto da tendini. Cioè il corpo è mantenuto dai tendini. Questo, allora, meditando in quel modo è garantito che l'attaccamento diminuisce. A quel momento lì sicuramente l'attaccamento diminuisce. Allora, queste contemplazioni non vanno fatte una volta ogni 6 mesi, perché altrimenti non funziona. Sono delle cose con le quali dobbiamo guadagnare familiarità. Ok? Familiarità. E dopo questa comprensione a un certo punto è più o meno presente, no? E evita l'attaccamento che si manifesta quando uno vede le persone che c'è questo slancio, no? Quando incontrano delle persone, no? Cioè, si dimora in uno stato libero di questa manifestazione che può possedere il corpo degli altri. Semplicemente quello che stiamo cercando di fermare qui. E invece dopo abbiamo una contemplazione per il cadavero rispetto al guadagno e rispetto. Quindi questo. Allora, abbiamo visto le prime otto contemplazioni, suddiviso in colore, sagoma e aspetto tangibile, erano rispetto al corpo degli altri, okay? È l'attaccamento per il corpo degli altri, e adesso, e si visualizza quindi l'altro sotto queste varie forme, e adesso possiamo utilizzare la meditazione del cadavero per eliminare il guadagno e rispetto rispetto a se stesso, okay? Rispetto a se stesso, no? Noi vogliamo il rispetto, vogliamo ottenere beni e servizi. Quindi per eliminare questa attitudine si visualizza se stesso come un cadavero in questi vari aspetti. E questo elimina il desiderio di guadagnare rispetto per se stesso, rispetto a se stesso. Ok? Una cosa che possiamo concludere con questo è riflettere. Sì, riflettere sull'impermanenza sottile. L'impermanenza sottile. Il meditare sull'impermanenza, allora abbiamo visto, no, l'impermanenza grossolana, che è la meditazione in 9 cicli della morte, ma meditare sull'impermanenza sottile è molto importante per l'attaccamento e anche per. Ci sono due cose positive. Calma l'attaccamento, ma anche. I stati euforici, quando tutto va bene, seguiti da stati di depressione, quando le cose non vanno più bene. Okay? Il meditare sull'impermanenza sottile elimina queste cose. Quindi il come si fa? Si siede, si prende rifugio, si visualizza il maestro sulla testa, il Buddha, eccetera, si fa le richieste, bla bla bla, si medita sul respiro, si calma tutto, o lo possiamo anche fare prima. Okay? E dopo quindi siamo seduti nella posizione di Vairocana in 7-8 punti, dipende come le contiamo, e prendiamo coscienza del corpo. Prendiamo coscienza del corpo, nel senso che mentalmente, tutto questo si fa mentalmente, non è che siamo così durante la meditazione, tutto questo si fa mentalmente. Quindi nella meditazione sulle impurità utilizziamo la mente come il bisturi del chirurgo, no? si apre e si guarda. Qui, qui è come lo scanner, no? Quindi si prende coscienza del corpo, si esamina il corpo in termini delle sue parti, quindi sono le gambe, sono i bracci, la testa, eccetera, le dita, tutto è diviso, no? Tutto è diviso. Si contempla la natura, no? Qual è la sostanza che compone, il corpo. Quindi abbiamo gli ossa, abbiamo la carne, abbiamo la pelle, queste cose, la testura, ok? È anche la dimensione. Quindi si prende queste cose velocemente, questi sono i passi introduttivi, no? E dopo dobbiamo cercare di diventare sensibile, okay, all'attività del corpo, il corpo che sta lavorando continuamente. Quindi c'è un movimento continuo. L'oggetto di questa meditazione è l'impermanenza sottile, okay? Quindi dobbiamo andare in questa direzione. Il movimento a ogni istante, quindi abbiamo il respiro a ogni istante, non c'è questo flusso interno e esterno del respiro, abbiamo i battimenti del cuore a ogni istante, qui si diventa consapevole di queste cose, le potete anche sentire, no? Si visualizza anche bom bom, bom bom, il respiro, i polmoni, utilizzate la vostra immaginazione, sondate, utilizzate la vostra mente e andate a sondare tutti questi vari aspetti, no? E il passaggio del sangue, no? Cioè i flussi, no? Tutte queste cose, visualizzate anche l'impulsione nervosi, no? Cioè queste connessioni anche a livello del cervello con i neuroni, brum, brum, no? Quindi c'è il movimento, ciò che caratterizza il corpo è il movimento continuo. E questo è anche un livello grossolano, perché a un livello ancora più sottile abbiamo la struttura cellulare. Si dice cellulare? La struttura cellulare, tutte queste cellule, abbiamo le cellule della pelle, dei muscoli, delle ossa, tutte queste cose che si dividono, sono prodotti, cessano, sono riprodotti, eccetera. Tutte queste cose a livello molecolare, no? È una massa di particelle vrombissante, no? Come? Ribollente, non so, cioè, non trovo la parola in italiano, cioè una massa di particelle che a livello atomico, no, è in cambiamento continuo, continuo, no? Cioè, quindi dovete arrivare a avere questa percezione del corpo, no, del tutto, no? Gli occhi, è una densità, solo la densità che cambia, e quindi non c'è neanche differenza, diciamo così, non andiamo. C'è questa densità che cambia, ma tutto a un livello atomico, subatomico, se tutto è uno stato vibratorio, è che prodotto e distrutto istante dopo istante, no? A livello delle cellule, degli atomi, eccetera. Okay? Quindi e quando abbiamo questa immagine, ce la teniamo un po', okay? Per familiarizzarsi con l'impatto che ha. E dopo. Si prende la mente, le varie parti della mente, i vari tipi di percezione che abbiamo, le percezioni uditiva, olfattiva, tattile, le menti concettuali, il dubbio, ma possiamo anche dimorare solo con le percezioni sensoriale e mentale, poi sì, sensoriale, poi abbiamo i pensieri che sorgono uno dopo l'altro, no? Quindi le concezioni e le percezioni che seguono uno l'altro. I pensieri che sorgono uno l'altro, le sensazioni che sorgono uno dopo l'altro. Quindi abbiamo tutti questi istanti, no? Che in un flusso, c'è cioè un flusso di attività mentale, quindi, e qui si osserva questo flusso non interrotti di esperienza mentale. E anche lì si cerca di avere l'impressione di non staticità, niente statico, niente dimora un istante, tutto in un continuo flusso fisico-mentale. E dopo si prende in considerazione l'ambiente esterno ravvicinato, il cuscino, il sedile, lo stato molecolare anche, è uno stato vibratorio che sta cambiando, i muri della propria stanza, no? Il tappeto, i vari oggetti che sono nella stanza, i mobili. tutto è uno stato vibratorio e tutto sta andando verso la disintegrazione, no? Tutto sta cambiando istante dopo istante. Dopo si prende in considerazione, no? Sì. Si mantiene una sì, abbiamo io guardo i miei appunti. Ok. Tutto anche qui, tutto nell'ambiente ravvicinato, no? Della propria stanza, della propria casa, i muri, le pareti, il tetto, tutto è una massa di particelle e uno stato vibratorio. Tutto è stato vibratorio. E si mantiene questo per un po' di tempo. E dopo si allarga, no? Si prende le altre case, no? La strada, il paese, le macchine, le altre persone, le foreste, le montagne, tutto è una massa di particelle in uno stato vibratorio. Non c'è niente che dimori un istante, ok? Quindi si dovrebbe mantenere questo alla propria mente, no? Ogni cosa che andiamo a toccare con la nostra mente è uno stato di flusso, niente statico, niente dimora, un istante uguale, tutto sta cambiando istante dopo istante e sta andando verso la disintegrazione completa. Questo è lo stato di disintegrazione, ma sta andando verso la fine, okay? Quindi si dovrebbe mantenere questo per un po' di tempo e quindi dobbiamo concludere questa comprensione, no? Perché questo vedrete che ha un impatto molto, molto interessante sulla mente. E concludete la meditazione pensando che non c'è niente che dimora statico, quindi è completamente irrealistico di attaccarsi alle cose, no? Perché niente dimora esattamente, niente dimora com'è, le cose vanno verso la loro disintegrazione, le cose accumulate vengono disperse, le cose prodotte vengono a cessare, le persone riunite vengono a essere separate, tutto è uno stato di questo flusso di movimento continuo, no? Quindi tutto ciò che è bello e tutto ciò che è piacevole cambia di istante dopo istante fino a scomparire, no? Ciò che è bello e piacevole si disintegra, non diventa più bello e piacevole e dopo scompare. Questa è la natura delle cose e non c'è niente che possiamo fare contro questo aspetto della realtà. Quindi non c'è niente, non possono darci una felicità duratura questi fenomeni, queste persone, questi vari oggetti, non ci possono dare una felicità duratura, perché ciò che è bello e piacevole è uno stato di disintegrazione. Associatelo in quel modo anche. Quindi è completamente suicidario? Suicidarsi. Di attaccarsi a queste cose, come se erano forse statiche, permanenti. È irrealistico. Se vogliamo essere, anzi, andiamo a creare la nostra sofferenza in quel modo. Andiamo a creare sofferenza perché abbiamo un'attività mentale che è in contraddizione alla realtà, è in contraddizione completa con la realtà, la nostro approccio e le nostre aspettative. Okay? E fate la stessa cosa dopo con ciò che è spiacevole e che dà fastidio. Tutto è impermanente, anche ciò che è spiacevole, che dà fastidio, anche in problemi, tutto è in uno stato di cambiamento. Quindi non dobbiamo sentirsi depresso o giù di morale quando c'è un problema, perché è impermanente anche questo problema, è impermanente. Tutto è uno stato di mutamento continuo, quindi le situazioni, tutto cambia, quindi è perfino ciò che è spiacevole può anche col tempo e col cambiamento diventare piacevole. E comunque un problema ha un inizio e una fine, una difficoltà, una sofferenza ha un inizio e una fine, esattamente come una felicità ha un inizio e una fine. Quindi è incongruo, illogico, e voler farsi del male, di afferrarsi alle cose come se forse erano statiche, no? Di afferrarsi alle cose, no? Con attaccamento, come se forse erano statiche, e anche di sentirsi depressi quando le cose non vanno male, no? Perché cambiano, tutto cambia. Quindi concludete la meditazione in questo modo. Questo è molto importante. Questo è molto importante. Quindi queste erano le contemplazioni per purificare il comportamento. Okay. Poi abbiamo il terzo, che sono gli oggetti per analisi, okay, o gli oggetti per esperti. Quindi questi sono cinque, sono gli aggregati costituenti sorgente. Sorgere dipendente è ciò che è impossibile. Quindi in breve, dobbiamo in quel modo, questo è per le persone che hanno studiato, devono riflettere su cosa sono i cinque aggregati, cosa sono i 18 costituenti, cosa sono i 18 sorgente o sfere, cos'è il sorgere dipendente, è ciò che è impossibile rispetto al karma, che è una fruizione. Spiacevole sorge da una virtù e che una fruizione, una maturazione piacevole sorge dalla non virtù. Okay. Questo sono meditazioni per esperti, quindi questo per analisi, questo sviluppa l'intelligenza, sviluppa la capacità di analisi, la mente diventa più acuta. Quelli che hanno fatto l'Abhidharma sanno queste cose. E poi abbiamo il quarto oggetto di meditazione, è le meditazioni che purificano le afflizioni. Allora, fino adesso le abbiamo un po' pacificate, adesso vediamo come possiamo abbandonarle, è questo che significa purificarle, no? E abbiamo, quindi qui quando si parla di purificare le afflizioni, si parla di ridurre la forza dei semi delle afflizioni, primo, ridurre la forza dei semi delle afflizioni, e secondo, rendere completamente non esistenti, cioè sradicare i semi dell'afflizione. Allora, il sradicare i semi dell'afflizione, lo sappiamo, solo la percezione, solo la stessa suprema dell'equilibrio meditativo che realizza direttamente la vacuità è in grado di farlo. Quindi solo la percezione diretta del modo di esistere dei fenomeni può sradicare un'afflizione. Altrimenti possiamo diminuire o ridurre la forza dei semi di queste afflizioni tramite un sentiero mondano. Che cos'è un sentiero mondano? Allora, realizzare direttamente la vacuità, questo si chiama un sentiero sopramondano. Okay? Quindi uno che realizza il realizzare direttamente la vacuità e andare al di là della visione del mondo. Quindi questa è una visione sopramondana. Invece un sentiero, questo si chiama quindi un sentiero mondano. Supramondano. In un sentiero mondano, che cos'è? È semplicemente il sviluppo di stati di concentrazione sempre più elevati. Ok? Allora, se vogliamo vedere i livelli di concentrazione, abbiamo quattro livelli di concentrazione incluso nel ramo della forma e quattro altri livelli di concentrazione incluso nel ramo del senza forma. Ok? Allora, se prendiamo le quattro concentrazioni del ramo della forma, abbiamo la prima concentrazione, seconda concentrazione, terza concentrazione e quarta concentrazione. In che modo lo sviluppo di questi livelli di concentrazione diminuisce la forza dei semi dell'afflizione? Parlarne è semplice, farlo è un'altra storia. Ok, abbiamo visto che se vogliamo ottenere delle concentrazioni, la mente si deve separare. La concentrazione è un livello di mente superiore, no? Livello di mente superiore in termini di qualità, di qualità, di chiarezza, di capacità, okay? È più raffinato, diciamo che è più raffinato lo stato di mente. Quindi per ottenere livelli di stati di mente più raffinate bisogna abbandonare livelli grossolani di stati di mente, giusto, no? Sembra che, cioè, i stati grossolani devono essere resi, non manifesti per manifestare livelli più sottili di mente. Quindi, che cose sono i livelli di mente le più grossolane che abbiamo? Sono le coscienze sensoriali, ma in particolare sono le coscienze, diciamo, dove è presente l'attaccamento, eccetera, eccetera, al reame del desiderio. Quindi per guadagnare una mente della prima concentrazione dobbiamo aver abbandonato, non alla radice, ma abbandonato i livelli di afflizione che corrispondono al livello inferiore. Quindi l'ottenimento della prima concentrazione è possibile quando la mente si è separato dai livelli di attaccamento al reame del desiderio. Stessa cosa, l'ottenimento della seconda concentrazione è possibile quando la mente si è separata, cioè è il risultato, infatti bisogna vedere la cosa così, separarsi dei livelli di attaccamento al reame del desiderio ha come risultato l'ottenimento della prima concentrazione. Separarsi dai livelli di attaccamento alla prima concentrazione ha come risultato la seconda concentrazione. Separarsi dai livelli di attaccamento alla seconda concentrazione ha come risultato la terza concentrazione, eccetera, eccetera, fino alla quarta. Ok? Quindi questo si chiama un sentiero mondano perché come funziona questo sentiero? Come la mente si separa dai livelli di attaccamento ai livelli inferiori, no? La mente analizza gli attributi, per esempio, se vogliamo ottenere la prima concentrazione, quindi dobbiamo utilizzare Shine, e dopo abbiamo sette preparazioni per arrivare alla prima concentrazione. Come funziona sta mente? La mente osserva gli attributi del reame del desiderio, dove siamo noi, il corpo, la sofferenza, i godimenti, il cibo, tutte queste cose, no? E la mente le percepisce come essendo molto grossolane, e invece osserva gli attributi del rame della forma, della prima concentrazione, come essendo pace e felicità. E in quel modo, no, piano piano la mente molla, con il potere della contemplazione e dell'analisi, molla l'attaccamento a questi oggetti e separandosi dei livelli di attaccamento al livello inferiore, si muove verso il livello superiore. Okay? E in quel modo le afflizioni vengono pacificate tramite, ecco come le afflizioni vengono pacificate dal potere della concentrazione. Funziona esattamente così. In inglese dice in nutshell, no? Questa è una spiegazione che si può essere contenuta. Sì. Per questo è molto complicato, bisogna studiare parecchio. E poi farlo è un'altra storia. Studiare non è mai troppo un problema. Ok, quindi questi sono antidoti, sono quindi oggetti di meditazione che purificano le afflizioni. E abbiamo due, abbiamo il sentiero mondano e il sentiero sopramondano. Il sentiero sopramondano è la percezione diretta della realtà che sradica completamente le afflizioni e il sentiero mondano che le rende non manifesta. Ma è come, cioè, non si manifesta. Ok, e più o meno io ho finito quello che vi volevo dire, ok? Quindi adesso tocca a noi. Avete delle domande rispetto a quello che abbiamo visto insieme? Sì. Riguardo queste ultime meditazioni, sono quelle che vengono chiamate dei quattro jhana materiali, quattro jhana non materiali nella tradizione Theravada. Sì. Assorbimenti non è neanche la tradizione Theravada, è un problema di traduzione. Ah, di traduzione, È un non di problema di tradizione. traduzione, perché il materiale è stato tradotto come forma, l'assorbimento della forma, e non materiale senza forma. Quindi è esattamente la stessa cosa. Allora, questi stati meditativi non sono un'esclusività del buddismo, esistono nelle varie, molte tradizioni, le tradizioni indo-cristiane, eccetera, hanno lo sviluppo di questi stati meditativi. Quindi il buddismo semplicemente utilizza la concentrazione per andare a analizzare la realtà ultima. Questa è la differenza, no? Questa è la... Allora, se, in accordo al Buddha, alla Mazzuncapa, eccetera, noi abbiamo un numero di volte infinite attualizzato questi stadi meditativi in vite passate. Le abbiamo già attualizzate, no? Però una volta che il karma che ha proiettato si finisce, si scende. Okay? L'unica cosa che non abbiamo mai incontrato è l'insegnamento sulla vacuità. Quindi non siamo mai stati riusciti a incontrare l'insegnamento sulla concentrazione associata all'insegnamento sulla vacuità e associare le due. Quindi questa è l'opportunità che abbiamo in questa vita. Abbiamo già sviluppato stati meditativi, ma non abbiamo mai utilizzato stati meditativi per realizzare il modo di esistere dei fenomeni. E questo è l'unico modo per ottenere la liberazione. Più di questo per adesso mi sa che ne abbiamo già di più di quello che possiamo utilizzare. Ok, avete altre domande? Ok, allora mi fermo qui. Noi ci vediamo a febbraio, okay? Ci vedremo a febbraio e facciamo questi 12 anelli, ok? Quindi vi preparo le tabelle. E una volta che avremo fatto i 12 anelli, passiamo all'essere dello scopo superiore. E poi andremo alla velocità tranquilla, copriremo quello che dobbiamo coprire. Quindi un po' di tempo ce l'abbiamo. Ok, dedichiamo. Quindi come di solito fare in modo che queste virtù accumulate non vengano a sprecate o distrutte. Andiamo a dedicare tutte queste virtù per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, perché gli esseri senzienti ottengono velocemente la liberazione, finché noi otteniamo lo stato di Buddha, e così beneficiare tutti gli esseri senzienti simultaneamente, spontaneamente. Andiamo a dedicare anche finché gli esseri, i veri maestri che insegnano il vero sentiero verso la vera cessazione, abbiano una lunga vita, una salute stabile e che le loro desiderie si esauriscono. Andiamo anche a dedicare finché l'insegnamento del Buddha insieme di Lama Tsongkhapa dimora a lungo in questa terra senza degenerare. Okay. E cercheremo di pensare alla fine che noi, la persona che sta dedicando la dedica o la sostanza, le virtù, è lo scopo per lo quale dedichiamo tutto questo, non ha un'esistenza vera. Tutto questo sono apparenza, la propria mente, niente esiste come appare. Ok, sì, già possiamo fare questo, è fantastico. Gyawadi anyadada lama sangye drugye nyadrava jinyo maloma neye salangoma jyongyo senjo rinpoche magye bana gengyuche yama nyamba nyama yam gane gondu balwa jyongare rame garwe jinkange Dam dam dewa malu juen Shenre jivan tenji gyatsui Shabe sita padu tenju Jiyan dasu jinye sabbe gyawadi Dam dam drawa kuna gambe da Nyamba jesu Drapa ye tembe nyambo rindu selje Grazie. Quindi buone feste, buone vacanze, ci vediamo a febbraio.